Pronto, don Andrea? Pronto. Pronto, don Andrea? Sono qua. Ecco, allora ti incarichiamo stasera di commentare il terzo mistero della luce, quello che è appunto quaresimale, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. A te la parola. Grazie, don Tino. Allora, ero e sono molto contento che questo terzo mistero della luce accada proprio il primo giorno di Quaresima qui a Radio Maria, perché in effetti l'invito alla conversione e l'annuncio del regno fatto da Gesù, che noi meditiamo nel terzo mistero della luce quando recitiamo il Santo Rosario. E certo, rispetto ad altri misteri del Rosario, questo è più, non è legato ad un solo brano del Vangelo, anzi direi che in qualche misura è tutto l'ambito, possiamo con molta libertà meditare alcuni brani del Vangelo, quelli che ci piacciono di più e che fanno parte un po' di tutta la vita pubblica del Signore Gesù, perlomeno dalle nozze di Cana fino alla trasfigurazione, che sarà il quarto mistero. Allora, io pensavo, preparando queste mie parole e sempre partendo dal libro sui misteri del Rosario, Contemplare Cristo con gli occhi di Maria, che certo poi questo primo giorno di Quaresima accade anche in un momento della Chiesa molto particolare. Da pochi giorni il Papa ha dato questo annuncio del termine del suo ministero petrino il 28 febbraio, e quindi è un momento di grande grazia, potrei dire, nella Chiesa, di molta preghiera, di molta anche meditazione su quello che sta avvenendo. E in qualche misura non mi sembra di forzare le cose se dico che ho pensato, guarda un po', io penso che anche rileggendo le parole che il Papa diceva poco prima di dare questo annuncio, per esempio quando parlava ai seminaristi di Roma venerdì, oppure nell'Angelus di domenica, che in qualche modo lui ci ha dato, e anche con questo annuncio della sua rinuncia, una grande catechesi sulla Chiesa e quindi sul Regno di Dio. E poi allo stesso tempo, proprio mercoledì, con la sua parola sia nell'udienza che poi nella Messa delle Ceneri, un grande invito alla conversione, per cui io penso che oltre a leggere il mio libro attingerò abbondantemente alle sue bellissime parole per aiutarci ad entrare nella meditazione di questo mistero. Come sempre io ho fatto, ho scelgo sette brevi brani del Vangelo, sette quadri. Allora il primo, direi che cioè, i primi cinque li prendo dal Vangelo di Matteo e gli ultimi due dal Vangelo di Luca. Il primo quadro lo posso chiamare così, il primo annuncio, ecco, il regno di Dio è vicino, ma dal Vangelo, proprio all'inizio del Vangelo di Marco, ecco, questo è Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. E quando abbiamo fatto la messa delle ceneri, l'imposizione delle ceneri, era una delle frasi che il sacerdote poteva dire nell'imporci le ceneri: convertitevi e credete nel Vangelo. Io così commentavo queste parole. Gesù ha avuto una lunga pazienza, riflesso dell'infinita pazienza di Dio. Ha saputo aspettare. Maria ha saputo aspettare con lui. Ora il tempo per annunciare l'avvento del suo regno è arrivato. Il regno di Dio è qui adesso, comincia in questo lembo di terra e si diffonderà nel mondo. Comincia con Gesù e in lui continuerà. La Chiesa è il suo corpo mistico. Per entrare in questo regno è necessaria la conversione e Gesù ci chiama ad essa continuamente, anche in questo momento. Conversione, cambiare vita, cambiare il fine della vita, cambiare mente, cambiare cuore, tutto nuovo, e credere davvero alla buona novella, al Vangelo. Credi tu davvero alla buona novella di Gesù? E pregavo: o Dio, che con le parole di Gesù ci chiami sempre alla conversione, fa per intercessione di sua madre che non smettiamo mai di cercarti e che non ci scoraggiamo mai pensando di non averti trovato. E io pensavo che proprio questa, ecco, quando le parole del Papa, che adesso ascoltiamo con particolare attenzione perché sono tra le ultime, no? Ieri diceva per la conversione. Non è facile essere fedeli al matrimonio cristiano, praticare la misericordia nella vita quotidiana, lasciare spazio alla preghiera e al silenzio interiore. Non è facile opporsi pubblicamente a scelte che molti considerano ovvie, quali l'aborto in caso di gravidanza indesiderata, l'eutanasia in caso di malattie gravi o la selezione degli embrioni per prevenire malattie ereditarie. La tentazione di mettere da parte la propria fede è sempre presente e la conversione diventa una risposta a Dio che deve essere confermata più volte nella vita. Quindi noi siamo chiamati adesso, oggi, a confermare questa conversione. E convertirsi, diceva, significa non chiudersi nella ricerca del proprio successo, del proprio prestigio, della propria posizione. E certo, queste parole sono molto forti se pensiamo che lui lascia la sua posizione per seguire una volontà di Dio che ha scoperto nella sua preghiera e nell'esame della sua coscienza, ma far sì che ogni giorno nelle piccole cose la verità, la fede in Dio e l'amore diventino la cosa più importante. E poi ricordava, ecco, tornate a me con tutto il cuore, con tutto il cuore, come ti dice il profeta Gioele. E allora questo richiama la conversione nel primo annuncio di Gesù. Poi, allora, il secondo quadro, per il secondo quadro ho scelto un brano del Vangelo di Matteo che dà un'immagine generale di Gesù che insegna, che annuncia, che fa miracoli di guarigione, che scaccia i demoni e tutte le folle che lo seguono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici. Ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Io ho sentito dire che molti si preparano ad andare a trovare il Papa con l'angelo di domenica o nelle ultime udienze. Sono come queste grandi folle che stanno vicino al vicario di Cristo, come una continuazione di quelle grandi folle che andavano da Gesù quando Gesù ha annunciato il regno. Gesù accompagna le sue parole con numerosi miracoli, prodigi e segni, i quali manifestano che in lui il regno è presente, che il Padre lo ha mandato e sollecitano a credere in lui che è il figlio di Dio. Maria lo segue, a volte di persona, altre volte ricevendo gli echi dei racconti. La fama di Gesù arriva a lei per prima e sempre lo segue con la preghiera. Lei sa bene che la terra degli uomini è assetata della salvezza di Dio. La terra aspetta da secoli, da millenni questo annuncio e si nota nelle folle che lo seguono, ma Gesù sa che questo entusiasmo non è sufficiente, perché non è venuto per liberarli per sempre dai mali fisici, ma dal male spirituale che è il peccato. È necessaria per ciascuno dei guariti da lui la perseveranza nelle buone opere, seguire davvero Gesù da vicino, e Maria in questo aiuta. O Padre, che nei miracoli di tuo figlio Gesù ci fai intravedere il mondo futuro, rinnovato e liberato da ogni male, e ci fai capire la tua azione di salvezza nelle nostre anime, aiutaci a scoprire la tua presenza invisibile nella nostra anima che ci chiama alla conversione. Io penso che, ecco, Gesù insegnava il Vangelo del Regno e penso che nelle ultime parole del Papa, e soprattutto mi hanno colpito molto le parole che ha detto ai seminaristi venerdì scorso, ai seminaristi di Roma, perché prendendo dalla prima lettera di San Pietro, a mio parere gli ha fatto una catechesi a tutti noi bellissima sulla Chiesa e anche sul compito proprio di Pietro. E per esempio mi commuoveva proprio il fatto che dicesse, Pietro scrive questa lettera non da solo, cita Silvano che lo ha aiutato a scrivere questa lettera, e poi cita anche Marco, e il Papa diceva, ecco, è molto importante questo, non parla Pietro come individuo, parla come uomo della Chiesa, certamente come persona con la sua responsabilità personale, ma anche come persona che parla in nome della Chiesa. Non solo idee private, non come un genio del secolo XIX che voleva esprimere solo idee personali originali che nessuno avrebbe potuto dire prima, no. Non parla come genio individualistico, ma parla proprio nella comunione della Chiesa. E qui c'è un'immagine che il Papa usa bellissima, perché applica a questo, cioè alla Chiesa, a questo mistero bellissimo della comunione nella Chiesa, e di cui Pietro anche fa parte, nell'Apocalisse, nella visione iniziale di Cristo, è detto che la voce di Cristo è la voce di molte acque. Questo vuol dire, la voce di Cristo riunisce tutte le acque del mondo, porta in sé tutte le acque vive che danno vita al mondo, è persona, ma proprio questa è la grandezza del Signore, che porta in sé tutto il fiume dell'Antico Testamento, anche, anzi, della saggezza dei popoli. E quanto qui è detto sul Signore vale, in altro modo, anche per l'Apostolo, che non vuol dire una parola solo sua, ma porta in sé realmente le acque della fede, le acque di tutta la Chiesa, e proprio così dà fertilità, dà fecondità, e proprio così è un testimone personale che si apre al Signore e così diventa aperto e largo. E così io penso che in qualche modo il Papa ci preparava al suo annuncio, no? A pensare a Pietro, che ha un carisma specialissimo, unico nella Chiesa, ma che è parte di questa missione che gli ha dato il Signore e che è aiutato dalla Chiesa. Allora, questo penso che sia come una specie di annuncio del Regno che noi stiamo ricevendo in questi giorni, cioè un approfondimento del mistero della Chiesa. Per il terzo quadro, ecco, Gesù ha annunciato il Regno con i miracoli, invitando alla conversione, e poi anche con i suoi discorsi, e ho scelto naturalmente quello che è un po' come il culmine dei discorsi di Gesù, il discorso della montagna e in particolare le beatitudini. E vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Come sono sempre nuove queste parole di Gesù, anche se le conosciamo a memoria, no? Perché le sentiamo attuali e anche le possiamo applicare al Papa, no? Perché lui nella sua difficile scelta è gioioso, è felice perché vive queste beatitudini. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, che saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Come, parlo per me, ci dimentichiamo facilmente di queste parole di Gesù quando ci siamo un po' in mezzo, magari per piccole cose. Appartenere al regno che Gesù annuncia è strada di felicità. Occorre riconoscere la realtà della vita che Gesù segnala come via per entrare nel regno. Povertà, afflizioni, mitezza, desiderio di santità, misericordia, purezza di cuore, diffondere la pace, essere perseguitati per la giustizia e insultati a causa di Gesù Cristo. Tutto con allegria ed esultanza. Maria ci prenda per mano e ci accompagni su questa via, perché noi non siamo capaci da soli. O Padre, che ci indichi nelle beatitudini di Gesù il percorso da seguire per giungere ed essere davvero tuoi figli, fa che la presenza di Maria ci renda più facile il cammino. Io ho pensato, pensando alle beatitudini, penso che è stato definito anche il nostro Papa Benedetto XVI come il Papa della gioia, no? Questa gioia di cui lui parla tanto, e mi veniva in mente, oggi ho sentito un piccolo passaggio quando parlava ai parroci di Roma e li ha fatti pure ridere, gli ha fatto un paio di battute, hanno riso di gusto, e segno proprio di un animo assolutamente sereno e libero, che sa che sta compiendo quello che Dio vuole. E infatti, quando anche parlava ai seminaristi di Roma venerdì, gli ha parlato della loro vocazione, e siccome San Pietro scrive la sua lettera agli eletti, cioè chiama noi cristiani gli eletti, cioè i scelti da Dio, no? E allora diceva, ecco, questo era un titolo di gloria di Israele, ma poi nel Nuovo Testamento diventa anche personale, ciascuno di noi è chiamato, poi c'è il noi della Chiesa, nella Chiesa, ad essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, ad essere santo come figlio di Dio. Ecco, E lui dice: Pietro trasferisce questo titolo, che era del popolo di Israele, a tutti i battezzati. Siamo eletti, Dio ci ha conosciuto da sempre, prima della nostra nascita, del nostro concepimento. Dio mi ha voluto come cristiano, come cattolico, mi ha voluto come sacerdote. Dio ha pensato a me, ha cercato me tra milioni, tra tanti, ha visto me e mi ha eletto, non per i miei meriti che non c'erano, ma per la sua bontà. Ha voluto che io sia portatore della sua elezione, che è sempre missione, soprattutto missione e responsabilità per gli altri. Ecco, eletti, dobbiamo essere grati e gioiosi per questo fatto. Dio ha pensato a me, ha eletto me come cattolico, me come portatore del suo Vangelo, come sacerdote. Mi sembra che valga la pena di riflettere diverse volte su questo e rientrare di nuovo in questo fatto della sua elezione. Mi ha eletto, mi ha voluto, adesso io rispondo. E forse oggi siamo tentati di dire: non vogliamo essere gioiosi di essere eletti, sarebbe trionfalismo? No, trionfalismo sarebbe se noi pensassimo che Dio mi ha eletto perché io sono così grande. Questo sarebbe realmente trionfalismo sbagliato. Ma essere lieti perché Dio mi ha voluto non è trionfalismo, è gratitudine. E penso che dobbiamo reimparare questa gioia. Dio ha voluto che io sia nato così, in una famiglia cattolica, che abbia conosciuto dall'inizio Gesù. Che dono essere voluto da Dio, così che ho potuto conoscere il suo volto, ho potuto conoscere Gesù Cristo, il volto umano di Dio, la storia umana di Dio in questo mondo. Essere gioiosi perché mi ha eletto per essere cattolico, per essere in questa chiesa sua, dove sussiste la chiesa unica. Dobbiamo essere gioiosi perché Dio mi ha dato questa grazia, questa bellezza di conoscere la pienezza della verità di Dio, la gioia del suo amore. Che belle queste parole del Papa, noi cerchiamo di seguirle. Forse anche questo è parte della nostra conversione. A volte dobbiamo pensare che la conversione è convertirci alla gioia, basata sulla fede. Credo, Signore, che Tu mi hai scelto e questo deve fondare la mia gioia. Per il quarto quadro ho scelto una parabola, perché Gesù annuncia il regno anche con tante parabole, tutte sono bellissime, ma ho scelto piccole parabole sul regno dei cieli. E espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. È bello pensare alla Chiesa mentre ascoltiamo queste parole di Gesù. Poi possiamo pensare anche alla vita personale di ciascuno di noi, che può diventare fiorente come un albero, ecco, piantato lungo il corso d'acqua della grazia di Dio e della vita della Chiesa. Anche presso la nostra vita, presso il nostro cuore, devono potersi venire a fare il nido, ecco, gli uccelli del cielo. Tantissime persone che possono vedere il cristiano, il suo amico, il suo genitore, papà, mamma, sacerdote, compagno di lavoro, come una persona che lo accoglie. Ecco come fanno le fronde di un albero che accolgono gli uccelli del cielo. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. E il lievito è nascosto, quindi a volte non si vede, non dobbiamo lasciarci ingannare da ciò che si vede, molto spesso la santità è nascosta. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova, lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Ecco, noi siamo stati abituati forse a leggere questo tesoro nascosto nel campo, che è la vocazione cristiana, che è, appunto, è il regno dei cieli, è la Chiesa, è la chiamata di Dio, come una cosa per cui vale la pena vendere tutto, no? E allora pensavo che, per esempio, il Papa, quando parlava ai seminaristi, anzi nell'Angelus di domenica, commentava la pesca miracolosa di Pietro e quindi la vocazione, e quindi diceva che la sua esperienza, che vede tutta questa pesca miracolosa e dice: io sono peccatore, allontanati da me, ma invece Gesù gli dice: no, sarai pescatore di uomini, cioè gli dà la vocazione in quel momento, quando si sente peccatore gli dà la vocazione. E allora diceva il Papa, l'esperienza di prete certamente singolare è anche rappresentativa della chiamata di ogni apostolo del Vangelo, che non deve mai scoraggiarsi nell'annunciare Cristo a tutti gli uomini, fino ai confini del mondo. E la vocazione al sacerdozio, alla vita consacrata, possiamo pensare ogni vocazione cristiana, è opera di Dio. L'uomo non è autore della propria vocazione, ma dà risposta alla proposta divina, e la debolezza umana non deve far paura se Dio chiama. Bisogna avere fiducia nella sua forza, che agisce proprio nella nostra povertà. Bisogna confidare sempre più nella potenza della sua misericordia, che trasforma e rinnova. E io le commentavo questo brano del Vangelo dicendo: il regno dei cieli è la partecipazione alla vita divina in Cristo Gesù attraverso la sua Chiesa, e avrà compimento negli ultimi tempi. Cominciò con Gesù e comincia in noi con il battesimo. Tutte le parabole di Gesù annunciano e spiegano il mistero del suo regno e ci invitano a entrare in esso. Occorre che facciamo crescere il seme ricevuto, che compriamo il tesoro, che diventiamo lievito per la Chiesa e per il mondo. Questa Quaresima per noi è di nuovo l'occasione, per chi non è cristiano o non ha ancora il dono della fede o lo ha perduto, è l'occasione per ritrovarlo. E vale la pena vendere tutto per comprare questo tesoro e poi per tutti farlo crescere, perché non dobbiamo lasciarlo inaridire. Ti ringraziamo, Padre, perché ci hai rivelato con le parole di Gesù, con le parole di Gesù, i misteri del tuo regno, che nella tua Chiesa si rende presente. E pensavo, per il quinto quadro, perché Gesù rivela il suo regno, annuncia il suo regno e ci chiama alla conversione anche, non solo con discorsi, parabole, miracoli, ma anche con tutti i suoi gesti. E in quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si fa piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Gesù annuncia che il regno dei cieli è dei bambini. Per entrare dobbiamo essere come loro, fiduciosi, grati, docili, bisognosi di aiuto. Essere bisognosi di aiuto è essere come bambino, quindi va bene. Non è un problema, anzi è una condizione per vivere bene, per entrare nel regno del Signore, per vivere bene da cristiani. Naturalmente umili, capaci di chiedere e di dare, capaci di amare. Tutti parlano dell'umiltà del Papa in questo gesto che lui ha fatto, anche in come l'ha manifestato. Abbiamo tantissime cose da imparare. Capaci di pregare come pregano i bambini. Ecco, io pensavo che quando San José Maria Escrivá, il fondatore della Bulla, diceva: dovete a tutti, ai laici cristiani, anche ai sacerdoti, avere una conoscenza della dottrina della Chiesa come un teologo, no? Profonda e dotta, però allo stesso tempo pregare come pregano i bambini, avere una devozione da bambino. E pensavo a Papa Benedetto XVI, che è un esempio meraviglioso di questa scienza teologica elevatissima, profondissima, allo stesso tempo come è capace di passarla con semplicità, e allo stesso tempo come prega con una devozione semplice, profondissima, e infatti per questo è stato capace addirittura di parlare con i bambini. Io mi ricordo qualche anno fa l'incontro con i bambini, stupendo e commovente, in Piazza San Pietro. Maria non si dimentica mai Gesù da bambino. Insieme con il tuo figlio Gesù esultiamo nello Spirito Santo e ti lodiamo, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto i misteri del tuo regno ai dotti e ai sapienti e li hai rivelati ai piccoli, perché così a te è piaciuto. Ecco, noi dobbiamo ascoltare questo invito del Signore a diventare come bambini, come uno dei tanti possibili temi della nostra Quaresima. Io pensavo: quale sarà il motivo della mia conversione, della nostra conversione? Penso che sia una strada personale per ciascuno. Un'altra cosa che mi ha colpito molto dell'annuncio del Papa è questo riferimento sicuro, sereno e certissimo al suo esaminare a fondo la sua coscienza davanti a Dio, e che è un esempio anche per noi. Dobbiamo andare davanti a Dio e chiedergli: Signore, in che cosa mi devo convertire in questa Quaresima? Spiegami tu la parabola su di me e poi seguire la sua voce. Sesto quadro. Gesù dà il potere ai dodici perché anche loro andassero ad annunciare il regno e a chiamare alla conversione. Convocò i dodici, diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio, a guarire gli infermi. Allora essi uscirono e girarono di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Quindi noi vediamo già nel Vangelo che l'annuncio del regno e la chiamata alla conversione non la fa solo Gesù, anzi la affida ai suoi apostoli, come oggi la affida anche a ciascuno di noi. Che Gesù scacci i demoni è segno che è giunto a noi il regno di Dio, ma il suo regno non avrà fine. Per diffonderlo e perpetuarlo, Gesù chiama sei dodici apostoli e dà loro grandi poteri spirituali. E poi chiamerà i 72 discepoli per mandarli ad annunciare vicino a voi il regno di Dio, e anche pregate il padrone della messe che mandi tre nella sua messe. Noi in questo tempo, seguendo il Papa, preghiamo per lui, per tutta la Chiesa e per il futuro romano pontefice, no? Che tra tutti appunto gli umili operai nella via del Signore è quello che poi guida tutti noi, e quindi ha bisogno di tutte le nostre preghiere, e con i cardinali nel conclave, no? Per seguire la voce dello Spirito Santo. E nella Pentecoste saranno 3.000 i battezzati, chiamati anche loro a essere apostoli del regno di Dio. Infatti poi si diffonde la novella del regno attraverso di loro. Ti ringraziamo, Padre, perché nella tua infinita bontà hai voluto chiamarci a far parte della tua Chiesa, associandoci all'opera della redenzione del tuo Figlio. E il Papa, sempre parlando ai seminaristi, diceva che San Pietro ci chiama, noi cristiani, rigenerati, e quindi diceva, ecco, essere cristiano vuol dire essere proprio rigenerato dalla forza di Dio, e farmi cristiano è un atto di Dio, non è una mia scelta, è una mia scelta conseguente, ma prima è un atto di Dio. E sono rinato, questo vuol dire che divenire cristiano è innanzitutto passivo, io non posso farmi cristiano, ma vengo fatto rinascere, vengo rifatto dal Signore nella profondità del mio essere. E questo è quello che noi dobbiamo comunicare, tutti i laici, i cristiani e i sacerdoti, comunicare agli altri questa bellissima novella: è Dio che ti chiama, è Dio che ti rigenera, è Dio che ti dà la forza per vivere poi quelle cose che ti possono sembrare difficili, e che vuol dire vivere secondo la vita di Cristo. E mi avvio alla conclusione, e c'è l'ultimo quadro, il settimo quadro, perché ci può aiutare quando recitiamo il rosario a meditare questo terzo mistero della luce, che lo potrei chiamare la protezione paterna di Dio sulla Chiesa, e anche, come dire, un orientamento a mettere in Lui il nostro cuore. E, oppure potremmo anche intitolarlo, con le parole che del Vangelo che adesso leggerò, non temere piccolo gregge. E non temere piccolo gregge. E voi, dice Gesù, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo. Io posso pensare come sono diversi alcuni commenti, anche se sono anche elogiativi e ammirati, di persone che non hanno la fede al gesto del Papa, e come diversi commenti pur ancora molto più addolorati, perché per noi è il Padre che ci lascia in un certo senso, quindi siamo affezionatissimi. Che bello scoprire che l'amore che Dio ha messo nei nostri cuori per il Papa è così profondo. È un fatto divino, è un fatto cristiano, soprannaturale, è un fatto di fede. Avere questo dolore così profondo per il Papa che ci lascia, e ci lascia rispetto al suo ministero, poi non ci lascia con la sua preghiera, continuerà, e speriamo anche con le sue parole, è un fatto che ci dice com'è profonda l'unione che c'è tra noi cristiani e l'unione con il Padre comune. E invece, ecco, l'ansia deve essere dei pagani di questo mondo, invece voi no, dice Gesù, il Padre vostro sa che ne avete bisogno, cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Quindi preghiamo, stiamo uniti a Dio, approfittiamo per un salto di qualità nella nostra vita cristiana, proprio per questo tempo di grazia che è la Quaresima, arricchito da questo evento della storia della Chiesa che il Papa ci sta facendo vivere. Vendete ciò che possedete e datele in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva, tarlo non consuma, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. E la preghiera non si perde mai, è un atto di virtù, non si perde mai, è un atto di fede, non si perde mai, un sacramento ricevuto ci dà una grazia e questo ci dà come un pegno per la vita eterna, soprattutto l'Eucaristia. Questo regno, questa famiglia, questa casa di Dio ha una caratteristica trattante, è il luogo della serenità, della fiducia in Dio Padre, della sicurezza del futuro qualunque cosa accada, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Bene. Ecco. Bellissimo. Sto bellissimo, Don Andrea, questo commento ha proprio al mistero specifico della Quaresima, adesso ci dà una bella benedizione per poter vivere appunto in questo spirito della Quaresima che è appena iniziata per il rito romano e che sta iniziando per il rito ambrosiano. Il rito ambrosiano, sì. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, con la mediazione materna di Maria e la compagnia dei Santi, ci accompagni sempre con la preghiera per il Papa, per la Chiesa e per il futuro romano pontefice.